Occhio alle preposizioni. A. Ascolta e controlla. Anna Maria e Bruno sono in macchina e hanno un appuntamento con degli amici. A un certo punto vedono nel cielo una mongolfiera. Girano a destra perché Anna Maria deve andare in lavanderia per ritirare una giacca. Bruno è un po' nervoso perché sono in ritardo. L'amica di Anna Maria si chiama Cristina, suo marito è Giacomo. Anna Maria e Bruno andranno a teatro con loro, ma, secondo Bruno, Giacomo è insopportabile. Lo conosce perché lavora nello stesso ufficio di suo fratello e gioca a tennis nel loro club. Sia al lavoro che al circolo non lo sopporta nessuno. Anna Maria pensa di andare al mare con loro, ma Bruno preferisce stare a casa da solo piuttosto che andare al mare con Giacomo.